La ferita del mendicante è lunga 12 centimetri. Serve un nodo ogni 2 centimetri, partendo dal centimetro 0 e arrivando fino al centimetro 12. Quanti nodi vi serviranno per chiuderla completamente?